Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Come sempre, due informazioni di servizio. La prima è la mail alla quale segnalare i vostri casi, unabusoalgiorno@radio24.it. La seconda riguarda il mio blog sulla prima pagina del Sole 24 Ore Online. Si chiama Guardie o Ladri, ormai lo sapete. Così come sapete che lì tratto temi di legalità e criminalità organizzata. Uno dei miei pallini fissi, chi mi segue lo sa, è l'ambiente, il rispetto dell'ambiente, una ricchezza, diciamo così, che dovrebbe portare tutti gli italiani a preservarla. A maggior ragione questo deve succedere, deve accadere, a mio modesto avviso, in quelle zone già splendide di per sé, perché madre natura le ha rese bellissime come poche al mondo. E oggi parliamo di questo, di una zona meravigliosa. Siamo in provincia di Catania, l'oasi del Simeto, una zona splendida, come è splendida tutta la Sicilia. Ebbene, ricordo che tanti anni fa, ormai sono passati, quando mi occupavo di amministrazioni locali al Sole 24 Ore, ricordo che l'oasi del Simeto divenne di punto in bianco popolare in tutta Italia perché l'allora sindaco Enzo Bianco cominciò la demolizione di alcuni manufatti abusivi. Fa specie quindi leggere sulla Sicilia di Catania del 29 ottobre del 2009 un titolo che così recita: Oasi del Simeto, costruzioni abusive. A Torre Allegra, una zona di riserva assoluta trasformata per realizzare edifici e parcheggi. Ebbene, se questo è vero lo trovo scandaloso ed è per questo che voglio parlarne con i miei ospiti. Innanzitutto quindi saluto Valerio Saitta, direttore del Dipartimento Ecologia, Protezione Civile e Polizia Provinciale della provincia regionale di Catania. Buongiorno Saitta. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Saluto Renato De Pietro, che è presidente del Circolo di Legambiente Catania. Buongiorno De Pietro. Buongiorno. E saluto il senatore Enzo Bianco, oggi senatore Enzo Bianco, ex ministro e già sindaco di Catania. Buongiorno senatore Bianco. Buongiorno dottor Galullo e buongiorno ai nostri ascoltatori. Allora, io direi di partire da lei, Saitta. Noi, devo dire, come sempre facciamo, abbiamo cercato di metterci in contatto tanto con la provincia di Catania quanto con il comune di Catania. Devo dire che non abbiamo trovato un humus molto fertile e qui mi fermo. Ringrazio comunque la provincia perché il dottor Saitta è stato delegato a rispondere a ciò che noi le chiederemo. E quello che vorrei chiedere innanzitutto a Saitta è proprio questo: com'è possibile che in un'oasi come questo ancora si permettano, e le chiedo anche di chi sono le colpe, si permettano questi scempi di costruzioni abusive? Ma guardi, devo dirle subito che l'articolo che è uscito il 29 ottobre credo che sia un po' strumentale, anche perché si tratta di costruzioni che risalgono una decina di anni fa, per le quali chiaramente sono state inviate alla magistratura tutte le comunicazioni di notizie di reato che erano necessarie. Ecco, ma al di là dell'arco temporale, no? Se c'è una costruzione abusiva, credo che poco interessi quando è stata costruita ed edificata. Esattamente. Ecco, quindi, come dire, l'importante credo che sia porre l'accento sul momento della vigilanza e della successiva abbattimento delle opere. Ecco, da questo punto di vista il suo dipartimento, la provincia di Catania, che ruolo giocano? Giocano soltanto il ruolo di vigilanza e di segnalazione, non abbiamo alcuna competenza per la demolizione. Ecco. Devo precisarle però che quello che appare sul giornale non è inserito all'interno della zona A, che è quella di massima tutela, ma è nella parte marginale della zona B, nella parte prospiciente alla SS 114, la Catania Siracusa. Ecco. Quindi non è in zona assolutamente protetta. Ecco, in ogni caso, se sono costruzioni abusive, che sia in una zona protettissima o in una zona meno protetta dal punto di vista ambientale, in ogni caso lì non ci dovevano essere. Ma però, è chiaro, non ci dovevano essere. Ecco, però le chiedo, Saitta, lei ha detto una cosa molto importante: nell'Italia delle mille frammentazioni delle competenze che vengono polverizzate proprio perché è lì che poi si insinua la capacità di delinquere, no? Spesso le leggi sono fatte proprio apposta per rendere impossibile il controllo. Lei ha detto una cosa interessante, molto importante: noi non ci occupiamo delle demolizioni ma vigiliamo. Allora le faccio una domanda cattiva: ma cosa avete vigilato? Niente, se questi qui hanno costruito quello che hanno voluto in questa zona. Ma guardi, io non posso assumermi delle responsabilità che non ho, perché assumo l'incarico da circa 6 mesi. Però io non voglio ovviamente scaricare alcuna responsabilità. Noi abbiamo soltanto il dovere, col poco personale ovviamente a disposizione, di vigilare su eventuali costruzioni unitamente al corpo forestale e ai vigili urbani del comune. Ecco, diamo, Saitta, una quantificazione, no? Perché in Italia, mi scusi, ma io sono un giornalista molto cattivo, in Italia la responsabilità è sempre di qualcun altro, no? Di chi mi ha preceduto. Lei ha detto sono venuto da 6 mesi, io non ho assolutamente motivo per non credere, ma in Italia la colpa è sempre di chi viene prima e no, poi vale, la colpa... Un secondo. Detto che non voglio scaricarmi alcuna responsabilità. Ma io infatti questo glielo riconosco, Saitta, però volevo terminare il discorso per poi porre la domanda. Cioè, in Italia la colpa è sempre degli altri, ma lei giustamente, io glielo riconosco, ha detto che non voleva scaricare responsabilità, e poi si dice sempre ma siamo 4 gatti, no? Siamo pochi. Allora, dato atto a lei che si assume in pieno le sue responsabilità, ma quanti sono questi 4 gatti che vigilano sull'osi del Simeto? Cioè, quantifichiamo anche i numeri per denunciare anche il fatto che siete veramente pochi. Voi, lei quanti uomini ha a disposizione? Dunque, io ho per l'oasi del Simeto e per l'oasi del fiume Freddo ho 9 persone. E qual è l'estensione? Quantifichiamo anche questo per chi non conosce l'oasi di Fiume Freddo, che ho avuto il piacere di visitare, è una zona fantastica della Sicilia. Ma guardi, assieme saranno 6.000 ettari. Ecco, allora io le faccio un'altra domanda cattiva, ma me la prendo con lei, Saitta, perché vedo che è una persona intelligente, ma quindi mi permetta di scherzare con lei. Ma con tutte le assunzioni che si fanno in Sicilia, così come in molte amministrazioni pubbliche italiane, quindi non me la sto certamente prendendo con la meravigliosa Sicilia, ma con tutte le assunzioni che si fanno, fra quelle clientelari, pilotate, inutili, eccetera eccetera, poi ci ritroviamo un suo dipartimento con 9 ispettori. Ma non è uno scandalo nello scandalo? Guardi, questo è una pianificazione che viene fatta a livello regionale per le riserve naturali, e quindi è stato deciso che nella provincia di Catania, per vigilare sulle aree protette, siano sufficienti 9 persone. Beh, io questo qui faccio i complimentoni a chi ha avuto questa idea geniale di dedicare 9 persone al controllo di un'oasi, di 2 oasi, insomma. Di 2 oasi, esatto. Ecco, poi fra le persone che si ammaleranno, quelle che giustamente andranno in ferie e quant'altro, la morale la tiro io, Saitta. Guardi, se uno vuole edificare e fare degli scempi, non c'è nessuno che lo controlla, via. Io devo tappare i buchi con i pochi uomini a disposizione anche della polizia provinciale, perché dirigo anche la polizia provinciale, quindi ogni tanto devo tappare qualche buco. Certamente. Allora io dico ai nostri radioascoltatori, noi dedicheremo anche domani a questo argomento, quindi mi raccomando, state incollati alle radio. Allora passiamo al secondo nostro ospite, poi ritorneremo anche domani con Saitta. Renato De Pietro, che cosa la convince e che cosa non la convince di quanto ha detto Saitta? Intanto mi dispiace questa accusa di essere strumentale, che rigetto in pieno, e le spiego perché. Ecco, spieghiamolo. Nella zona che stiamo trattando, perché l'abusivismo nella riserva, diciamo, c'è da un bel po' di anni. Su questo casomai lo possiamo anche approfondire in seguito. Certo. Parlando del caso specifico, questi abusi in questa area, che non sono di villette, ma sono proprio di impianti quasi tipo industriale, quindi si tratta di impianti a servizio di ditte di autotrasporti, e sono iniziati all'incirca nel 2006. Nel 2006 noi, come abbiamo visto, le prime opere, abbiamo fatto le segnalazioni, ci sono stati anche provvedimenti della magistratura, provvedimenti di sequestro, violazione di sequestro, ma tuttora questa attività, fino appunto all'ultimo nostro esposto, che abbiamo verificato un'ulteriore distruzione. L'area si trova in zona B riserva, ma si trova in un'area molto vicina, parliamo di pochi metri, alla zona A della riserva, dove si trova una zona umida abbastanza importante per la fauna. In ogni caso, queste aree che erano in passato campi agricoli di tipo estensivo erano soggette a impaludamento. Ecco, io la fermo un secondo, De Pietro, perché voglio cercare di capire e andare a puntare il dito contro i colpevoli. Allora, chi è il colpevole, secondo lei, di questo scempio per la mancata vigilanza? L'abbiamo già sentito da Saita, sono quattro gatti a vigilare, ma per la mancata abbattimento di queste opere? Allora, per quanto riguarda completo un momento anche per, diciamo, una notizia che questa è nuova, pochi giorni fa, giorno 7 novembre, siamo ritornati sui luoghi, sì. Abbiamo visto nuovamente che c'erano lavori in corso, abbiamo contattato il corpo forestale che, a quanto noi sappiamo, poi sono intervenuti. Quindi questo, ecco, per lo stato dell'arte. Benissimo, allora io la fermo un secondo, De Pietro, la fermo un secondo, la ringrazio per il suo intervento. Andiamo adesso con i saluti in regia a Roberto Scaltritti e in studio Elisabetta Fusconi, ma domani di nuovo qui perché torniamo ancora a parlare degli scempi nell'oasi del Simeto. Da Roberto Galullo, buona giornata a tutti.